Ciao, mi chiamo Anna Morosini, sono insegnante precaria della scuola secondaria di primo e secondo grado. Insegno inglese e francese e oggi vorrei proporvi degli estratti tratti dal libro di Jean-Philippe Cazier dal titolo Europe d'ici. È la storia di uomini, donne e bambini che arrivano in Europa dopo un lungo viaggio, disseminato di insidie e di violenze, per sfuggire alla miseria e alla guerra. Sono profughi, sono emigranti. Il libro vuole essere uno spazio di accoglienza, un luogo comune, aperto a chiunque, una comunità di dimenticati dalla storia, di gente senza lingua e senza identità, perseguitati da sistemi oppressivi e a volte anche assassini. Il libro non ha di certo il potere di salvare i profughi o migranti che arrivano nel Mediterraneo, ad esempio, ma la parola dell'autore accoglie quella dei migranti, perché le parole rappresentano dei gesti, dei punti di vista che possono escludere, ma possono anche accogliere. Le parole dell'autore sono intrise di umanità, quella che sfugge spesso ai media che parlano al posto di, a volte anche contro, i profughi o i migranti. Il punto di vista che ascoltiamo è quello unicamente legislativo. I migranti sono trasformati in statistiche, in casi quantificabili, casi amministrativi. In questo libro invece l'autore vuole restituire gli interrogativi più frequenti che un rifugiato o un migrante pone a se stesso e sono interrogativi puramente umani, basilari. Morirò? Perché questa violenza se non abbiamo fatto niente? Con chi devo parlare? Come faccio a non essere solo in un paese in cui non conosco nessuno? Domande solitarie a cui a volte l'Europa risponde con cinismo. In questo estratto, che adesso vi leggerò, l'autore fa parlare in prima persona un profugo. Le seul traitement qui nous est réservé est un traitement policier. Nous vivons dans des camps. Nous ne pouvons pas vivre dans vos maisons. Nous vivons dans ce que vous appelez une jungle. Vous ne nous donnez pas le droit de vivre ailleurs. Nous ne vivons pas dans des camps. Nous y passons, nous marchons. Puis nous marchons le long des autres routes. Nel prossimo estratto, invece, l'autore parla personalmente. C'est la nuit. Ils parlent une langue qui n'est pas la vôtre. Ils dorment par terre, dans la rue, allongés les uns contre les autres pour avoir moins froid. Ils fument des cigarettes en regardant les bateaux, la mer et le ciel. Le ciel est noir. Les oiseaux passent au-dessus d'eux. Ils escaladent des grillages et leurs vêtements s'accrochent au fil barbelé. Questi uomini fuggiti a loro damma finiscono in campi e trovano questi campi come delle giungle dove sono parcheggiati affinché diventino invisibili. E l'autore dopo descrive una notte dal cielo nero che li osserva da lassù e li osserva scalare griglie metalliche e i loro vestiti aggrappati poi ad un filo spinato. Grazie.